Ben arrivati in quel luogo di perdizione che è la mansarda del Dottor Pirates. Parleremo di John Wick, un film che è uscito un po' in sordina e poteva sembrare una tavanata. Invece no. Mi sbagliavo, John Wick è un film fighissimo e riporta dignità ai film d'azione con scelte molto intelligenti. Ma partiamo dalle premesse. Il buon Keanu Reeves è un ex killer a pagamento, di quelli di prima categoria, che veste elegante, capace di uccidere tre uomini con una matita. Nel suo ambiente è una figura mitologica. Dopo il ritiro dalle scene, per amore e la conseguente morte della moglie, è in piena apatia e si trascina giorno dopo giorno. Prima di morire, la moglie gli regala un cucciolo di Beagle, sperando che questo cucciolo gli possa dare degli stimoli, e anche se non lo dà troppo a vedere, perché fondamentalmente lui ha solo un'espressione in viso, ama tantissimo quel cucciolo. Però ha un incontro con dei russi, che fondamentalmente sono i nuovi tamarri criminali dei film americani, e questi russi irrompono in casa sua e gli uccidono il cucciolo. Ovviamente i russi tamarri criminali non sapevano che lui era il leggendario John Wick, lo chiamavano Baba Yaga, ovvero l'uomo nero, ma non era esattamente l'uomo nero, era quello che mandavi a uccidere il fottuto uomo nero. Dunque l'ex killer a pagamento non la prende tanto bene e ne fa una questione personale, per cui comincia a uccidere più russi lui della cirrosi epatica. Infatti, ad un eroe antieroe di un film americano potete toccare tutto, ma non il suo cane. A questo punto l'unica via percorribile è la vendetta. Sfogherà tutto il suo dolore con una violenza metodica, ferrea e calibrata. Lo so, detto così pare un film senza spessore, ed invece no, perché John Wick è un piccolo mondo con tante piccole chicche, in primis l'elegante albergo speciale riservato ai killer a pagamento, dove vigono leggi speciali, un codice di un comportamento ferreo che deve essere rispettato da tutti. La cosa è presentata anche con la giusta dose di ironia, con toni grotteschi, e rende la visione ancora più gustosa. E queste sono le piccole accortezze che fanno la differenza. Inoltre, le scene di combattimento e le sparatorie hanno un senso, sono ben inquadrate e si riescono a seguire, niente inquadrature impazzite come per tanti altri film. Dovete sapere che la pellicola è stata codiretta da Chad Stahelski e David Leitch, spero di averli pronunciati bene, l'inglese è una lingua barbara, che di professione facevano gli stuntmen. Questo deve aver influito sicuramente. Un plauso anche alla sceneggiatura di Derek Kolstad. Inoltre c'è William Defoe, e basta la sua faccia per avere un valore in più. E poi la monoespressione tenebrosa del buon Keanu Reeves qua calza a pennello, e facciamo il tifo per lui praticamente da subito. Il film ha un'ambientazione cupa, noir, che funziona benissimo con quello che vediamo su schermo. La fotografia è eccelsa e ci regala una New York oscura con dei colori un po' saturi, luci al neon. Una cornice perfetta per la mattanza che andremo a seguire. Inoltre anche l'alternanza tra azioni e sequenze più riflessive con appunto scene d'azione ben ponderata e rende la visione estremamente piacevole, lontana dalle accozzaglie di botte esplosione che a volte vediamo in altre produzioni. Per me, ma non solo per me, è stata una sorpresa e devo dire che vorrei vedere ancora di più del mondo di John Wick. La colonna sonora impreziosisce ulteriormente l'atmosfera della pellicola, da citare che gli Strangers di Marilyn Manson sono strampalati cupo rock blues. Che ve lo dica a fare? Keanu Reeves ha 50 anni in grandissima forma, John Wick è una bomba, colpisce nel segno dove molti altri film con nomi più altisonanti falliscono. Non è un film d'azione fracassone, e non è neanche uno di quei film che mette pathos un po' ovunque. Alla fine John Wick è John Wick, e spicca fuori dal coro delle banalità grazie alla sua eleganza. Perché alla fine, dietro a sparatore, scazzottate, corse in macchina, è bene sempre metterci una visione, un immaginario. E John Wick ce l'ha questo immaginario. Buona visione